ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e Simone One. Di nuovo buonasera e ben ritrovati a tutti voi amici ascoltatori. Questa è la 10ª puntata di Piazza Alta, ragazzi, un successone. Pallara, ha perso buonasera. Il tempo. Buonasera. Ciao simpatici amici. Questo era Marsi. E quello era Insino. E quello laggiù chi è? Ma chi fate entrare in radio, i miei ragazzi? Compagni di viaggio. Cani, eh? Che carini e porci. E questo ovviamente è l'amico di Marzi che è qui e gli fa compagnia, sì, decisamente. Allora ragazzi, noi siamo carichissimi, prontissimi alla grande, prontissimi. E direi che musica. Donna, questo il brano che inaugura la 10ª puntata di Piazza Alta. Il brano è del gruppo Calibro 35 ed è proprio estratta dal primo disco di questo gruppo. Allora pensate, simpatici amici, ma falla tutta che innanzitutto Sara, io vorrei ringraziarti per questa domanda. Lo sapevo che non ce l'avrei fatta e allora risolvo da sola, perché questo è strettamente necessario. Vi devo dire, sì, a voi ascoltatori, a voi, ah, no, no, perché no. Sì, scusa, voi scusa, no, che il video di questa canzone è stato girato all'interno di un locale milanese che però voi dovreste conoscere bene. Se vi dico Ligera. Ma guarda il caso, questa sera c'è Ligera. No, lo conosciamo benissimo, è il locale perché di un nostro carissimo amico Riccardo Riccardo, sì, che Bernini, tra l'altro che salutiamo. in comunicazione con noi, no, molto probabilmente. Sì. Ma forse, ma noi forse gli diciamo di rimanere all'ascolto. Sì, questa sì, perché sarà una puntatona e verso la fine sarà veramente eccezionale, veramente eccezionale. Ma come ma avrebbero potuto ascoltarci? Tutto, non svegliamo sai? Tutto. Allora, avrebbero potuto ascoltarci se la compagnia telefonica questa sera non ci avesse abbandonato. Maledetto. Avrebbero potuto ascoltarci innanzitutto in streaming sul sito www.radiof.it. Ma da quando? Oppure... Ma da quando? Marconi ricorda? Dal 1976. Yeah. Oppure in tempi un po' più recenti con le nostre magnifiche app, yeah, per Android and Apple. Dai, però ricordiamo anche la frequenza FM di Radio F. Certo, 101.2 modulazione di frequenza dal 1976. Ecco, questa invece stasera è operativa, quindi invitiamo gli amici che sono al cantiere, presi dagli ultimi preparativi per il carnevale, così entriamo ma già insomma in atmosfera. Fossero i nostri amici in altre faccende affaccendati, domani ci possono riascoltare sulla nostra pagina Facebook. Bravissimo. Domani, dopodomani. Da domani per una settimana e per tutta la vita. Sempre, per sempre. Questi, caro Enzo, poi la trasmissione di stasera, come anche le altre, ce lo dimostrerà. Sono piccole cose che poi rimangono nel tempo. Perché noi, a distanza di anni, nella nostra ricerca di Foiano, delle bellezze, dei personaggi, dei fatti, degli aneddoti, dei disfatti e degli aneddoti, troviamo delle briciole, dei piccoli segnali che ci siamo stati anche noi. Pensate, siamo solo all'inizio, eh? Pensa un po' io, ecco, ora faccio 20 minuti di silenzio totale. Poetico, ha sparato tutte le sue cartucce e ora siamo alla fine. Allora senti Marcello, mentre te fai un riposino, Marzi, facciamo una cosa, cominciamo intanto a lanciare il tema di questa sera su queste note musicali. Posso? Vai, dillo. Lo vuoi dire te? Sì. Vai Marzi. La canzonetta del carnevale. Gossip, questo è il gruppo, e evitiamo commenti perché titolo del brano Silenzio. Hanno partecipato anche alla canzonetta del carnevale, mi sembra. Sì, la canzonetta del carnevale. In realtà, simpatici ascoltatori, l'argomento di questa sera non è la canzonetta del carnevale. Pazienza, ma no. È il festival della canzonetta. Vorrei fare una precisazione. Marzi, la canzonetta del carnevale, poverino, è l'argomento delle mie prossime quattro sedute dall'analista. Salutiamo l'analista sempre di Marzi. Caro ci fu quest'ermo analista. Caro, sì, caro. Sì, perché poi non vuoi parlare della canzonetta, no, del pensavo, carnevale? Perché poi non funziona l'analista. Guarda Sara, io ti ringrazio. No, non funziona per colpa del soggetto. Volevo ricordare a per tutti per colpa del soggetto, che sì, stasera iniziamo una serie di trasmissioni riguardanti il carnevale, perché è per questo che si è confuso. Esatto, è già in maschera, è sono in trance agonistica in maschera, per il sì, e allora non l'ha mai cambiata. Ma comunque perché, ragazzi, scusate, cioè, voi fate tutta questa prosopopea su un mio piccolo errore, su una mia disattenzione. In realtà è tutto da lì che parte, è tutto lì che arriva. Io vorrei sapere il vostro dove intervento parte, sarebbe dove gradito, sì. Arriva, certo. Ma volevo dire noi una siamo cosa qui seria, apposta. Una sola, giuro, poi non ne dico più. Certo, promesso. Non è no, che di solito che saranno molte le puntate sul carnevale, perché Foiano è il paese del carnevale. Vedi? Quindi iniziamo stasera. Siamo per entrare nel vivo. Soft, insomma. Quindi con il festival della canzonetta, che poi era anche proprio la prima manifestazione che apriva i festeggiamenti. Come non è? Come non è? E poi andremo avanti. Giovedì prossimo, questa volta Sara, concedimelo, sì, anticipiamo un po' gli argomenti delle settimane prossime. Allora, fai sì, tutto perché è vero, in effetti, cioè, sei proprio antipatico. Guarda, parlo due minuti e poi vado via. Ma si sa, e questo è il suo egocentrismo che stasera ha avuto la meglio. Due minuti, ma due minuti 30 sono secondi. 30 secondi. Allora, Simone, ti prego, vieni in nostro aiuto. Volevo solo dirvi che la settimana prossima avremo, per i foianesi, gli amici di Foiano che ci ascoltano lo sanno, gli amici che stanno più lontano magari no, avremo l'estrazione del sorteggio l'estrazione del sorteggio no, il sorteggio dell'uscita dei carri del carnevale, incartato, è diventato e la rosso. Conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni, ecco, presente Blatter e Platini a questa giovedì, questa diamo la data della conferenza stampa giovedì 6 ottobre. Giovedì 6 febbraio, e naturalmente era un giovedì, era un giovedì come certo, tutti i grandi eventi anche nel 1976 la registreremo questa conferenza e manderemo alcune ispezioni durante la nostra trasmissione, certo, e da lì inizierà una serie, così rendiamo tutti i nostri ascoltatori partecipi. Io farò la ragazza immagine che porta le palline con l'urna, certo, pensavo quella che botte l'estrazione tra l'altro tra l'altro da quest'anno Radio F torna a essere la radio ufficiale delle manifestazioni, lo dobbiamo dire con un certo orgoglio, ve ne è vero? Certo, certo, ma siamo iniziamo contentissimi di questo. Sara, però ma dici qualcosa iniziamo, sì, iniziamo davvero a entrare nel vivo. Quindi adesso vi chiedo, Enzo, ragazzi, Enzino e Marzi, no, vi chiedo, concentratevi un secondo, sì, perché adesso dovete veramente parlare seriamente. Ci siete? Sì, ecco, pronto. Marzi, usa questo coso. Ok, allora ragazzi, davvero, iniziamo a entrare nel vivo del Festival della Canzonetta. Sì, quindi, allora, stasera era veramente, parliamo del festival più famoso che si sia mai tenuto a Foiano. Quindi, cioè, allora, intanto diciamo che cos'è e quindi quando e come nasce il Festival a Foiano. Grazie Sara, prendo la parola e ti ringrazio per questa domanda arguta che hai proposto a tutti noi. E per capire meglio di che cosa parliamo stasera e per far capire anche i nostri ascoltatori, possiamo dire che il nostro Festival della Canzonetta si avvicina molto a quello che è un po' più noto, diciamo, un po' più, come dire, bravo, dillo. Adesso, bravo. Adesso prende anche confidenza con il microfono, perché stasera proprio non ma dillo con parole tue, come sapere, direbbero su una emittente, sì, Marzi, nazionale. Rilassati. Allora, il nostro Festival della Canzonetta, cara Sara, si svolgeva sempre prima dell'inizio dei corsi mascherati. Praticamente segnava l'inizio proprio del carnevale e le canzoni naturalmente erano tutte a tema carnevalesco. Innanzitutto stasera bisogna, bravo, ringraziamo, ringraziare chi ci ha fornito anche materiale sia storico che diciamo ci ha assistito, ci ha offerto una testimonianza. C'è un'unica parola, Marzi, brava, che lasciamo, è testimonianza. E a questo proposito, momento testimonianza, aspettavo il jingle, GR. Allora ringraziamo Alvaro Seriacopi e Giorgio Gervasi. Sì, li ringraziamo perché ci hanno dedicato del tempo e ci hanno anche fornito del materiale fotografico che poi andremo a pubblicare. Diciamo che intanto dobbiamo iniziare da qua. Il festival, le prime notizie che abbiamo sul festival risalgono addirittura al 1937. E poi pubblicheremo, se riusciamo, anche nelle locali. Giovedì, beh, assolutamente. Sì, ti ricordo. Che era anche 1937-76. Vedi, guarda, è questa cadenza del sette finale. Che non vi piace. Vi piace. No, è l'anno dopo. Altri documenti, ecco, altri, sì, documenti risalgono al 1948. Un anno dopo. No, veramente. Al sette. Marzi, forse è meglio che un attimino arrivai in ritardo. Un attimino. So tutte. E poi finalmente. Vedo. Dal 1962 riprende a pieno ritmo il Festival della Canzonetta e da lì Alvaro riuscirà anche a darci delle testimonianze, come vedrete più avanti, ascolterete più avanti, e avremo delle, veramente delle chicche. Ma come si svolgeva, mi chiedeva la mia cara Sara, che fa sempre domande sopra la media. Una prima parte sopra la media. Sì, come del resto una prima parte situazione permette questo e quindi mi adatto. Allora, brevemente, la prima, sì, parte della serata venivano eseguite le canzoni. In una seconda parte della serata, mentre venivano raccolti i voti, si esibivano in spettacoli di cabaret in spesso dei bravissimi foglianesi che si improvvisavano. Che il foglianese, ma, l'arte ce l'ha nel sangue, esatto. Chissà voi da chi avete ripreso. Ma poi vi diremo la fine. E oppure negli anni d'oro addirittura intervenivano dei cantanti e degli artisti famosissimi, ma anche di questo che ne parleremo dopo. Che esatto. Per l'epoca erano dei veri e propri eventi. E nella terza parte venivano proclamati i vincitori. Meglio la fine. Quasi sereno. E abbiamo ritrovato anche Quinto Rigo stasera con questo brano Malatosano. E allora, chissà se pensate, nel 1937 in Malatosano avrebbero avuto no, una no, qualche Malatosano, Malatosano è il titolo, avrebbero Quinto Rigo è il gruppo. Senti Marzi, io ti dico che questo brano era, si trovava nell'album del 2000 che è stato poi ristampato nel 2001. Pensa perché Quinto Rigo si presentarono a Sanremo con il brano Ben ti voglio Angelina e quindi dopo da lì per questo sentimento venne positivo, ristampato l'album. E allora pensa, se dico Festival di Sanremo torniamo insomma proprio, a parlare è un'equazione. Di un festival, il Festival della Canzonetta, che a te piace tanto, sei entrata in questa dimensione. Sì. Festival della Canzonetta, il problema è uscirne, cara Sara, tra l'altro se mi concedete, prego. Se posso dire una parola. Stiamo pubblicando delle vere e proprie chicche sulla pagina Facebook e i nostri amici le potranno vedere e stanno già piacendo a molti, infatti già molti amici ci stanno rimessaggiando, ma li saluteremo e dopo. A tutti loro va il va nostro bene. Voglio fare un diciamo po' di continuare a seguirci amici. Lui va da solo. Allora, tre trasmissioni, certo, ognuno c'ha la sua, va per conto suo. Facciamo fare un saluto anche a Simone. Infatti, così è la quarta mono, trasmissione c'è il trono. Il trono? Avevamo il problema del mono prima. No, stasera, sta parlando cara, da solo. Cara Sara, aspetta, ti aspetta, aspetta, perché aspetta. Queste domande parla volevo, da solo. Volevo fai, te le studi a casa? Sì, me domande. Le studio. C'è ancora a casa, da fartela, certo, la domanda. Ma è disconnesso. È disconnesso. Volevo sono tranquillizzare avanti, i nostri amici che ci ascoltano. Non sono solo loro che non capiscono quello che sta dicendo Marzi, anche lui. Nemmeno noi, ma anche lui non capisce quello che dice. Perché niente, apre bocca, dà fiato e va avanti. Ma siamo convinti che stai per dire qualcosa di intelligente. Sì. Certo, perché proprio parlando di cose intelligenti vorrei riallacciarmi a quello che dicevamo prima del brano dei Quinto Rigo, perché Enzino, proprio te ultimamente, cioè hai finito l'intervento di prima dicendo come si svolgevano queste serate del festival. L'intervento è andato bene, Ora è, sì, diciamo manca soltanto un po'. Non sì, di rianimazione. Di che cosa state facendo? Di corso post-operatorio. Procede ma bene. Che cosa dici? Non lo so, mi fanno dei gesti. C'è anche qui fuori dalla finestra qualcuno. Che vuoi dire, Paolo? No, Marzi, devi stare fermo. Dobbiamo mettere una telecamera. Non è possibile fare solo il programma radio. No. Dobbiamo anche vederlo. Sì. Adesso è diventato. No, Sari, ma è colpa sua. Sara, continua, ti prego. Non ci posso credere. Ti prego, parlaci. Sì, no, no, parlate voi. Insomma, ma ci hai fatto già la domanda? Come, sì, come vogliamo approfondire come si svolgevano allora, le serate come del festival? Come ho provato a dire due minuti fa. Grazie per questa domanda. No, prego, Sara, prego. Perché, ma questo dimostra che rispondi. Tu hai a cuore la trasmissione e ti impegni e studi a casa. Dicevamo precedentemente che il festival era una gara con interpreti che cantavano canzoni originali, accompagnati da orchestre prestigiose. Ma molto prestigiose, scusami se te lo sottolineo. No, no, prego. No. Vuoi dire qualcos'altro? No, ho fatto, ho fatto. Tra un pochino. Tra tutte, e ci scusiamo per chi in questo momento non possiamo citare, ricordiamo quella di Bruno Sonnati, quella di Marino Pagliai e la Folchiana del maestro Narciso dell'Avanzato. Tra l'altro mi piace ricordare, ricordacelo, ricordacelo. Ora non è un ricordo che io ho bello fresco, però nelle nostre interviste ce l'hanno ricordato più volte, la canzone vincitrice del già citato 1937. L'intonazione stavolta è partita un po', come dire, slancio, cadente. Da, nel 1937, Bimbe venite qua, non, era non la gli funziona bene il diaframma. Era, vinse il Festival della Canzonetta e divenne anche la canzone ufficiale del Carnevale. Guarda, ho fatto una ricerca, scusa Marzi, ma non sono riuscito a trovare un file con questa canzone perché è veramente bellissima. Ma siamo sicuro che riusciremo una di queste sere a farvela sentire. Prego. E noi vivremo nell'attesa. Ma dicevamo della gara. Continua a raccontarci Alvaro Seriacopi che la gara era molto sentita dagli autori delle canzoni e che la votazione si svolgeva in questa maniera. Eccomi! Allora, funzionava così, era molto semplice. Avevamo gli spettatori presenti nel Teatro Apollo, che è un teatro molto importante dal punto di vista della capienza, oltre 800 posti, circa 850, e quindi ogni spettatore aveva diritto a un voto. Ma non bastava questo. Accanto a questo c'era una giuria di esperti, una giuria specializzata, che aveva dei voti che equivalevano a circa 300 voti. Quindi avevamo un totale di 1100 voti, 800 popolari, e 300 invece erano di questa giuria. Però non fu sempre così, perché a un certo punto, e lo vedremo più avanti nella trasmissione, non fu sempre così, dicevo, lo vedremo più avanti. Vennero fatti dei cambiamenti, ci furono delle polemiche. Era un work in progress. Sì, un po' come noi. Ma ce lo racconti. Modifiche. Modifiche. Modifiche. A tra poco. Modifiche. Loro arrivano da Treviso, sono i New Candies e queste sonorità neopsichedeliche erano quelle del brano Black Beat. Siete rimasti senza parole. Cioè ci proprio sono dei momenti, che momenti. Neopsichedelico, guarda, mi mancava. Dopo la dodecafonia... Chiediti perché. Chiediti ma il neopsichedelico è un neo che viene e va via, viene e va via, viene e va via. Viene va via. Aiuto. Ecco, Marzi, però, mentre ti chiedi perché... Uscito fuori! Mani in alto, mani in alto. Che meraviglia. Vi spiegheremo perché. Ma ci vuole una telecamera. Purtroppo non abbiamo la videocamera. No, Marzi, devi stare fermo però Marzi, non perché... toccare. Allora, ora lo Sara, ti ringrazio per questa domanda. No, aspetta. Così intelligente che ci hai. Ora lo spiego. Marcello ha delle cariche elettrostatiche per cui si creano dei campi. Donne, venite. Attenzione. E io per esempio anche ora sento mono, ma va bene, va bene. Salutiamo nel frattempo gli amici che ci stanno ascoltando, che ci cliccano, che ci piacciono, che ci mandano messaggi. Beh, prima fra tutti, ormai fa parte della famiglia. Un saluto. Fammi indovinare. Prova. Alla Edi. Ciao Edi, fai parte di noi ormai. E poi salutiamo ancora Alessandro, Enrica, Claudio, che ci stanno ascoltando. Abbiamo anche degli avvocati, quindi stiamo attenti a quello che diciamo. L'avvocato Chiantini e la consorte da Siena. Beh, no, sì, non dovevo dire così, ma dico così, ho detto ormai così. Ormai è andata. E il maestro di avvocato. Musica Samuele Tornesi e il suo celebre olio. L'olio del Tornesi. Ma non me lo dire, guarda. Non me lo dire dell'olio del Tornesi. Bene, detto questo, torniamo a noi, alle mie curiosità e alle domande. Quindi via, concentratevi. La curiosità allora, è femmina. Enzino, certo, Enzino... e Marci. Allora, prima ci avete spiegato come funzionava la gara. Con dovizia ora, di particolari. Sì, con dovizia di particolari. Sei stato bravo, stai andando bene, Marci. So. Però ora non ti sciupare adesso. Continua così. Allora, prima di domandarvi le modifiche del 70, dove ci eravamo fermati prima, sì, io vorrei però un attimo allargare il campo per sapere chi erano gli autori che più hanno contribuito al festival della canzonetta. Sara, io guarda, non so come ringraziarti per questa domanda così intelligente, ma veramente questo ci gratifica. Basta, abbiamo capito, non noi, perdiamo guarda. Tempo, Marci, stai divagando, vai. Ok, allora, bisogna dire che gli autori del festival della canzonetta, ora se non... No. Capito. Nel corso degli anni frigge perché... adesso. E friggi, Marci, vi friggi. È una questione di odore, però. Dicevo, gli autori che nel corso degli anni hanno partecipato alla gara sono stati tantissimi. Tra gli altri ricordiamo Tiezzi Fabio. No, meraviglioso. Cioè, c'è bisogno Arnaldo di una foto. Tiezzi. E Sergio Franceschini. Non so dove metti a fuoco, Marci. Così va bene, grazie. Ho un 3 decibi. Forse quello che ha vinto di più, Sergio Franceschini. Esatto. Ma pensate che negli anni d'oro della manifestazione venivano maestri compositori da mezza Italia. Bah. Tant'era la fama del nostro festival. Invece, tra gli ospiti famosi si ricordano in particolar modo Peppino Di Capri. Scusa, una vera star dell'epoca. Sì, vorrei, i ragazzi giusto. Della Via Gluck, del clan Celentano. Paolo Pestaloni, no. Piacere, e Jimmy Fontana, Don Bachi che si fermava sempre qui dal curato, e Marcella Bella addirittura. Marcella Bella, su cui avremo degli aneddoti che vi risparmiamo. Mentre invece tra i presentatori si annoverano niente po' di meno che udite Pippo Baudo, quel simpatico pennellone. Esatto. E Ramona. No, lei. Ho sbagliato. No, sì, Ramona Dell'Abate, che venne nel 1983. Pensate che in quell'occasione, ci racconta ancora Alvaro, che non smetteremo mai di ringraziare. E ti ricordo che era un giovedì. Certo. Io tra l'altro c'ero in quell'anno a vedere il Festival della Canzonetta, me lo ricordo benissimo, anche Simone facendo di esserci stato. Ecco, Ramona Dell'Abate era una delle presentatrici di Fantastico 3. Cara Sara, mi corre l'obbligo di spiegarti un po' di cose perché eri piccolina. Ecco, quel Fantastico 3 faceva di media 20 milioni di telespettatori. Quindi lei era una vera e propria star. Come non fu, Alvaro mi racconta che quella fu la serata, sicuramente l'annata migliore per il Festival della Canzonetta, al punto tale che aveva 850 posti che in cinema, che non sono assolutamente pochi, ma lui, o meglio gli organizzatori, riuscirono a vendere oltre 1000 biglietti, quindi c'era gente assiepata quell'annata ancora ovunque. Qualcuno ne ha delle bottiglie in cantina. È una delle più saporite, sì. Well, all right. It is pitch black slums and like a ring ding. Ow! Burning ring. Burning day, and it makes a fiery ring. Bound by the wild desire, hell, I fell into a ring of them to see a wedding. Fire hit a bun, burning at the big fiery ring. At the ring, at the bell, head a spin tingling. Hit a gwine, burn your heart out and the sun blazing. When it burn up on no heart, feel the fire you sing. I fell into a burning ring of fire. Bene, Ring of Fire, reinterpretata da questo gruppo tedesco H-Block. Ce l'ho fatta. Bene. Canzone, siamo, io sono abbastanza, senti, soddisfatto. Questa ci ha dato una bella scarica energica. A me è piaciuta perché, voglio dire, siamo più o meno a metà Sara, puntata. Può essere che verso la trentesima puntata cominci anche ad apprezzare il genere. Scarica energetica. Volevo, allora, ricordare una cosa, mia, scusami, sì, Sara. No, no, prego, no, perché abbiamo, prego, pubblicato la locandina del 1983, del 1983. Quella in cui presentava appunto lo, sì, ma ormai ti continuo a dire Ramona Dell'Abate. Ramona Dell'Abate. Ma è testimonianza dell'attività della nostra radio, la locandina, proprio perché era organizzata dal Comitato del Carnevale di Foiano e da Radio F, che era pronta, quindi, dal 1976. Quindi protagonista, come torna ad essere protagonista da quest'anno Radio F anche per il Carnevale. Quindi perfetto, con il orgoglio. Cerchio si è chiuso e noi andiamo avanti con alla grande. Con orgoglio lo dico. Quindi, e beh, direi. Beh. Grazie Sara, allora, per questa. Allora, torniamo, sì, no, basta, basta. Allora, torniamo a noi. Dunque, dalla testimonianza di Alvaro Seriacopi, che davvero ringraziamo ancora, io soprattutto perché grazie a lui sto scoprendo un sacco di cose che non sapevo. Allora, il Festival della Canzonetta ebbe un grande successo. Però, dicevamo prima, più o meno intorno agli anni 70 ci furono dei problemi, soprattutto con i gruppi dei partecipanti. Allora è arrivato il momento di scoprire che problemi ci furono e quali modifiche vennero fatte. Vai! Mi sono prenotato perché non so tutto. Non era accorto nessuno, so Marzi, sei invadente. Cara Sara, stasera, sei invadente. Mi compiaccio della, sì, tua, e basta, andiamo avanti. Veramente, su, Sara, io non capisco come il tuo interesse per la, per il Festival della Canzonetta, per le nostre persone nello specifico. E ti ringrazio, sì, per queste domande, sì, basta, veramente, vedi che sono che poi di un livello, perdi, sono ma... Zichichi forse. Anzi, abbiamo, andiamo avanti. Ricchi. Sentite, prendiamo un tubo. Se sentite dei vuoti è Marcello che ha delle pneumatici. Di stile. Che se, allora, cara Sara, cara, come ogni Sara, evento di successo che si rispetti, ad un certo punto succede qualche cosa, viene fuori la polemica, che poi spesso è quella che lo gli accresce, oh vai, il successo, oh vai, praticamente. Spiegala, allora, vai, stringi, ti vado a stringi, spiegare. Fai tutti gli interventi con le mani alzate, anche se da casa non ci vedono, perché mani rendi in alto, meglio. Mani in alto, Marzi. Nei primi anni 70 si affacciò alla ribalta foianese un gruppo di giovani che si riunirono in un club chiamato Lumacons. Ricorda bene questo nome. Aspetta, cara che Sara, me lo segno, Lumacons. Vai. E vi promettiamo che tra qualche tempo, tra l'altro, stiamo cercando materiale, testimonianze, perché ci sono cose interessanti. Faremo da una trasmissione intera sui Lumacons. Allora, dicevo, questi Lumacons parteciparono 3 anni consecutivi al Festival della Canzonetta, nei quali poi vinsero le prime 2 volte e la terza arrivarono terzi. Ma a sentire quello che ci racconta Alvaro, le modalità in cui ottenevano questi risultati non erano proprio ortodosse. Al punto tale che molti degli autori che venivano da lontano smisero proprio di partecipare al festival, che era arrivato ad essere svolto in 2 serate, e appunto si tornò alla soluzione dell'unica serata. Sì, perché appunto, come diceva il mio collega, è vero, sì, il mio collega Marzi, davvero a un certo punto il festival aveva preso dei connotati importantissimi, una risonanza a livello interregionale, tant'è appunto che venivano invitati i maestri delle varie scuole musicali, è vero, e partecipavano con entusiasmo, al punto tale che non bastava più una serata, ma per alcuni anni siamo passati a fare 2 serate del Festival della Canzonetta. Solo che come non è, questi Lumacons come non fu. Erano un momento di rottura i Lumacons. Esatto, perché riuscirono a vincere per più volte, e sentendo Alvaro, come dicevi appunto tu, caro il mio Marzio, non in modo ortodosso, vado avanti. Però abbiamo raccolto, come diciamo prima, anche un'altra testimonianza, quella di Giorgio Gervasi, che ovviamente ringraziamo anche Giorgio, anche egli, che faceva parte dei Lumacons addirittura, e lui ha negato tutto, o quasi, perché andando avanti con il racconto, e nel prossimo intervento ve lo spiegheremo meglio, non vincevano nettamente, ma diciamo che vengono fuori degli aneddoti per cui si riesce a capire che questo primato non è che venisse fuori solo per meriti canori. C'era tutto un lavorio dietro, pre e post, sub and marketing, come dice il c'è tutto un mondo intorno. C'è tutto un mondo. Is for virgins, children in summer, brides in the park. My color is black, black, black. Black is for secrets, outlaws and dancers, for the poet of the dark. Black is the truth. Those of my stage. Grande ritorno dopo 7 anni di attesa di Susan Vega. Questo è il singolo che anticipa l'uscita dell'album targato 2014, che uscirà il prossimo 3 febbraio e si potrà uscirà in streaming. Noi siamo tarpati, io te lo dico, perché no. su Susan Vega io avrei aspettato c'era anche no ragazzi come. Veramente Susan Vega, no, sì, Vega. Sì, no. Ci andava Goldrake Vega. Comunque il titolo del brano era I Never Wear White. No, ma poi white. Voi avete capito che vuol dire? I never wear white. Non c'è mai un tempo bianco. Ma mi sembrerebbe di offendere la tua intelligenza. Via via che il tempo passa. È tiranno. Noi abbiamo una telefonata in attesa, quindi abbiamo già allertato. Quindi torniamo un attimo al più che al Festival della Canzonetta. Mi riallaccerei proprio al gruppo dei Lumacons, perché abbiamo iniziato. a parlare di questo gruppo. Enzino, tu hai già postato la foto dei Lumacon? Sto aspettando di fare questo intervento, cara la mia Sara, ma guarda, lo vado a pubblicare in questo momento. Bene. Pubblicato! Sentiamo, ottimo. Sara, e allora, questo argomento ha veramente stuzzicato la tua curiosità. Sì, perché i Lumacons sono stati vincitori per ben 2 volte su 3 partecipazioni. Quindi voglio dire, allora, ora andiamo a spiegarvi. Ed è anche perché vero che, come dicevamo prima, i Lumacons sono stati il gruppo che destò le polemiche più aspre della storia del festival. E a questo proposito Giorgio Gervasi, componente del gruppo, ci ha raccontato in prima battuta che non era assolutamente vero che usassero stratagemmi per vincere. Chiaro, sono quelle dichiarazioni, raddoppiamento fonosintattico, sono quelle, capito, con quelle dichiarazioni di circostanza. Ma poi parlando, sono venute fuori delle chicche meravigliose di vasariana memoria. Come abbiamo già detto, la giuria era composta dal pubblico in sala, che andava dagli 800 ai 1000 spettatori, più una giuria di esperti, che valeva per altri circa 300 voti. Sì. I Lumacons, non potendo intervenire sulla giuria scelta, interveniva su quella popolare, che secondo me era anche un pochino ma più... In che modo? Perché come facevano? Qui viene fuori l'astuzia del foianese. Del foianese arguto. Molte erano le pratiche, ma le più belle te ne dico 2 o 3. Vai. La prima era che il Picche, altro componente dei Lumacons, altro personaggio su cui molto probabilmente faremo una puntata, acquistava tutti i posti della galleria e si ci riusciva anche quelli in fondo della platea, e poi li rivendeva nel proprio negozio di fiori, naturalmente solo ad amici che gli assicuravano il voto. Geniale, geniale. Grandissimo. Poi ce n'era un altro, le signorine che durante la serata... La serata prima consegnavano la scheda di voto e poi la ritiravano, cercavano di arruffianarsi il pubblico in vari modi. Il più famoso, quando i Lumacons presentarono la canzone Le trecce della Sora Bigocciona, altro che pizza e fichi, mica rose rosse, voglio dire, consegnando il dolce tipico del carnevale, le trecce appunto, a tutto il pubblico, arruffianandosi. Ma non finisce qui. Lo prendevano per la gola il assolutamente pubblico. Ma poi facevano un'altra anche altre chicca. cose, sempre le solite signorine che appunto dicevamo andavano a consegnare la scheda da votare, l'andavano anche a ritirare alla fine della prima parte. Allora pensa che organizzazione che aveva i Lumacons. Una volta individuata durante la serata quella che poteva essere la canzone che poteva più dargli fastidio per la vittoria, le signorine appunto che erano d'accordo con i Lumacons, quando andavano a ritirare le schede, sbirciavano nella scheda, se vedevano il nome di quella canzone, diciamo che involontariamente ne facevano scomparire qualche centinaio di voto, mettendosi cosa in tasca, ma sì, sotto la gonna, la gonna oppure nel décolleté, molto interessanti, Gli organizzatori infatti si aspettavano un certo numero di votanti, ma la questura come se siamo 800 vacanti c'è 400 voti e basta, o chissà. Ma l'ultima, la più bella, ve la voglio dire, era questa. Siccome come al Festival di Sanremo non si potevano ascoltare prima le canzoni, e i Lumacons avevano studiato questo stratagemma: registravano su musicassetta l'aria della canzone che avrebbero presentato durante il festival col pianoforte, e poi sempre il Picche montava un altoparlante sulla sua Fiat 1100 e andava in giro per il paese facendo ascoltare per molti giorni quest'aria. Voi direte, non che ci posso credere. Era bellissimo, perché nel momento in cui la serata veniva fatta, la serata del festival, il pubblico aveva già questo già motivo, orecchiato il motivo nelle esatto. orecchie proprio, nell'orecchie. E quindi gli rimaneva il più familiare e lo votavano dei veri e propri geni. Era proprio già erano immediato. Avanti almeno dal molti anni. E poi loro ancora facevano altre cose bellissime oltre alla votazione, creavano scompiglio. La più bella di tutte l'hanno fatta un anno in cui sono andati sul palco, o meglio dietro le quinte, con un mulo al guinzaglio e un piccolo maialino. Eccolo. Ecco, il problema fu questo: che il maiale gli scappò dal guinzaglio prima di entrare sul palco e creò uno scompiglio generale dietro le quinte e anche dopo. Got it. Ancora in sottofondo le ultime note di Get It On, il dei T-Rex. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Che c'entra questo? Era venuto bene. Ma dillo a tutti, in origine si chiamavano Tyrannosaurus Rex. Ecco, lui è arrivato solo questo, ce l'ha coi dinosauri. Mani in alto. Mani in alto, stai fermo, non ti muovere. Fermo così. Allora, innanzitutto salutiamo il nostro ospite, perché allora è arrivato il momento della telefonata. Sì. Ecco a voi Pippo Baudo. Pronto Riccardo? Eccolo! Grande da è Milano! È un miracolo! Ciao Sara, che piacere sentirti! Hai visto? Grazie del tuo saluto! Ciao, Ricca. Piacere di conoscerti Riccardo! È la seconda volta che lo sento! È la seconda volta, è un secondo piacere! Certo! Come stai Riccardo? Abbiamo parlato anche dell'Igera a inizio trasmissione, ma poi te lo ridirò in separata sede. Adesso abbiamo bisogno di te e dei tuoi racconti inerenti al Festival della Canzonetta! Certo! Sono un po' qui per questo. E quindi? No, ci puoi dire qualcosa? Te hai avuto esperienze sia dirette che indirette? Tuo babbo, voglio dire, è stato uno Guarda, dei protagonisti. Il Festival della Canzonetta, perché così si chiama, Festival certo. della Canzonetta del Carnevale, era uno degli appuntamenti chiave dell'anno, diciamo, solare foianese, no? Esatto. Tra l'altro era un festival combattutissimo, si sfidavano a colpi di note compositori che venivano non soltanto dalla provincia ma dall'intera regione. Infatti, insomma, infatti. Ho memoria di un palco dove si consumavano tensioni atroci che al confronto Sanremo fa ridere i polli. Bravo, così mi piace. No, davvero, mi ricordo scene dietro le quinte con cantanti che erano in ansia da prestazione perché ci si giocava molto sul palco della Canzonetta. Tra l'altro io l'ho fatta, insomma, e devo dire è una platea che in qualche maniera metteva soggezione, perché il teatro che è molto grande, è una bella capienza. È forse anche più grande del festival, cioè del teatro Ariston a Sanremo. Questo era Simone. È più grande dell'Ariston. Esatto. Senti, ma tra l'altro ha un pubblico anche molto più competente. Bravo. Allora, quindi era veramente un pubblico competentissimo e affamato di canzoni. Bravo. Davvero una sensazione molto bella. E poi negli anni si sono succeduti ospiti e presentatori di altissimo livello. Ne abbiamo parlato infatti, sì, è vero. Senti, ma noi ci siamo sentiti oggi con Riccardo per preparare, che poi non abbiamo preparato questo intervento, ma io ho chiesto solo una cortesia. Siccome non siamo riusciti a recuperare dei file di queste canzoni splendide, ho chiesto a Riccardo che ce ne cantasse un pezzo in diretta. Quindi noi siamo qui che a te. Dici quale brano che ti faccio presentare da Sara. Guarda, Enzo. Allora, io farei, se voi siete d'accordo, quando siete, perché tanto canto io. Certo, noi ci adeguiamo. Spontaneità. No, secondo me la canzone più rappresentativa di sempre è Maschere Giulive, che è proprio bravo. Chi non se la ricorda? La proporrei come inno nazionale, guarda. Bravissimo. Allora, guarda. Prego. Mi ricordo il compositore, devo dire la verità, non vorrei fosse il grande Sergio Franceschini. Ne abbiamo parlato anche di lui questa sera, probabile, insomma. Però una fesseria vorrei indagare. Quindi diciamo di autore ignoto. Approfondiremo l'argomento. Allora aspetta che ora Sara ti presenta. La comunità è solo ritornello. Assolutamente, aspetta che ti presenta Sara. Sì, allora. No, aspetta che ti introduco. Allora, con Maschere Giulive canta Riccardo. Cantiam, sei bella Foiano, sei bella in Carneval, sei fulgida come una stella, cantiam, balliam, valanga di cuori sognanti in Carneval, la vita più bella sarà in Carneval. La vita più bella sarà. Bravo! Signori, questa è Piazza Alta. Questa è Piazza Alta. Questo documento rimarrà nella storia. Davvero. Segnate la giornata la serata di stasera. È un giovedì. Guarda, Riccardo, ricordiamo, te sarai sicuramente nel tuo locale nell'Igera, giusto? Sì. Ecco, la gente come ti guardava? Io questo vorrei sapere. Guarda, è meglio se non te lo dico. Sarà chiuso nel ripostiglio. Diciamo, il senso di humor è un po' differente da noi. Ecco. Vabbè, verremo su a spiegarglielo. Riccardo, noi non sappiamo come ringraziarti. Un abbraccio. Grazie, davvero. Tanto prima o poi ti ricontatteremo. Estrapolato questo ricordo che conservavo gelosamente, ma che adesso mi ricanto tutta la canzonetta a casa. Bravo. Domani ti puoi riascoltare in podcast, io lo farò sicuramente. Lo farò immancabilmente. stabilmente. Grazie ancora Riccardo. Ciao, grazie, buona serata. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Che bello, ragazzi. Che bello. Allora, ragazzi, questa non è una radio di servizio. No, questa è un servizio di radio, proprio, guarda. Ecco, io direi di concludere la questo sera. Questo è davvero un gran finale, ragazzi. Beh, mamma mia, stasera proprio abbiamo chiuso alla grande. Vorrei dare un tocco di personale. Ecco. Sì, ma ha ragione, questa volta sì? Mi tocca dargli ragione. Ecco, vai, va bene, va bene. Prima di farlo, però, salutiamo gli ultimi amici. Si stanno guardando con occhi languidi. Ora capirete perché. Perché Riccardo ha rinnovato un ricordo. Che adesso andremo a dire. Ma prima saluto Desi, Oriana, Roberto, Gianluca che dice: ma quanto era bella Ramona dell'Abate. E io dico: perché non hai visto Sara, tra l'altro? Perché altrimenti. No, questo non c'entra niente. È che siamo in chiusura, e quindi sì, in chiusura ormai uno ricordiamo si lascia una andare cosa. A cose. Festival della canzonetta, della canzonetta si chiude definitivamente nel 2002, ma nel 2001 hanno presentato era un giovedì assolutamente anche allora. Certo. Hanno presentato in modo eccelso un duo di presentatori che si chiamavano all'epoca i Musi Lunghi, ma che in realtà erano Enzo e Marcello. Sentite con che voce profonda l'ha detto, rotta dalla commozione. Guarda, vorrei farvelo vedere perché ha commosso, c'ha gli occhietti lucidi. Sì, perché quando Riccardo diceva prima di stare davanti a 800.000 persone, noi abbiamo ben noi capito sappiamo qualcosa. Appena iniziò lo spettacolo andò via la luce, tanto e per dire e quante ne potremmo raccontare, ma non le raccontiamo perché questa sarà un'altra puntata di Piazzalta. Ci risentiamo giovedì prossimo. Certo, ciao, appuntamento a giovedì prossimo, amici. E da domani sulla pagina Facebook potete trovare il podcast di questa magnifica decima puntata di Piazzalta. Alla prossima. Dal 1976 avete ascoltato Piazzalta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla conduzione tecnica Simone.